24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il vertice dei leader dell'Eurozona che si tiene oggi a Bruxelles, chiamato a decidere sul nuovo pacchetto di aiuti alla Grecia. Sul summit sono puntati tutti gli occhi del vecchio continente. Parleremo anche della proposta della Commissione europea per la revisione della direttiva sui capitali o Basilea 3. Oggi ai nostri microfoni potrete ascoltare il ministro degli esteri Franco Frattini e il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani. Vi racconteremo le ultime sullo scandalo News of the World e su una cattura eccellente del criminale di guerra serbo Azic. A chiudere, come sempre, il Tour de France. In primo piano l'attesa allora per il vertice dei leader dell'Eurozona che si terrà oggi a Bruxelles. Al centro del summit il secondo piano di salvataggio della Grecia. The situation is very serious. Ieri il presidente della Commissione europea, Josep Barroso, ha lanciato un appello ai leader della zona euro affinché mostrino responsabilità europea perché è in gioco il futuro dell'Eurozona, ha detto Barroso, che state ascoltando. Barroso ha anche chiesto ai leader di rispettare gli impegni presi per garantire la stabilità. Le opzioni sul tavolo restano diverse, un riscadenzamento del debito ellenico, un riacquisto da parte di Atene del proprio debito grazie ai finanziamenti del fondo Salva Stati, una tassa sulle banche che porti liquidità al fondo, l'istituzione di Eurobonds fino alla ristrutturazione del debito greco, opzione però quest'ultima praticamente esclusa poiché equivarrebbe a un default. Questa mattina gli sherpa comunitari saranno chiamati a mettere a punto il piano definitivo. Un summit decisivo per il futuro della Grecia e dell'Unione, così il portavoce del governo ellenico ha definito l'incontro odierno dei 17 leader di Eurolandia. Bruxelles intanto scende direttamente in campo per aiutare Atene a stimolare la crescita e recuperare competitività anche attraverso un migliore e più tempestivo utilizzo dei fondi europei. Questa è la missione affidata alla Task Force europea per la Grecia, costituita presso la Commissione. Il ministro degli esteri Franco Frattini, in visita in Cina, esclude che Pechino abbia al momento intenzione di aumentare la propria quota di acquisto dei debiti sovrani europei. Sentiamo Frattini. No, non se n'è parlato perché l'Italia ovviamente non era interessata a richieste specifiche. Siamo interessati però a che la Cina continui un'azione di moderazione. Sappiamo che la Cina ha investito in debiti sovrani di alcuni paesi, tra cui la Grecia e presumibilmente anche l'Italia. Io non ho i dati aggiornati. Quel che mi preoccupava e che ha trovato una risposta positiva è che la Cina crede nella importanza fondamentale di una zona euro stabile e di un'Europa forte. Questo è un dato molto positivo. Voltiamo ora pagina. Sanzioni per le banche che scendono sotto i requisiti di capitale, meno dipendenza dalle valutazioni delle agenzie di rating, miglior controllo del rischio sui derivati e capitali cuscinetto in caso di crisi. La Commissione europea ha proposto ieri una revisione della direttiva sui capitali sulla base delle cosiddette regole di Basilea 3, l'accordo trovato lo scorso novembre al G20 per rafforzare il settore bancario. Sempre la Commissione afferma di essersi attivata per salvaguardare e possibilmente facilitare in questo contesto l'accesso al credito per le piccole e medie imprese. A prendere l'iniziativa è stato il vicepresidente della Commissione responsabile per l'industria, Antonio Tajani, che ha scritto alla European Banking Authority chiedendo di valutare entro un anno se il tasso di rischiosità assegnato alle piccole e medie imprese possa essere ridotto. Sentiamo Tajani che ha parlato a 24 ore in Europa. Non saranno penalizzate perché è prevista una indagine da parte dell'EBA, che è l'Agenzia Europea di Supervisione delle Banche, per valutare qual è l'impatto sulle piccole e medie imprese. Questa indagine, che dovrà concludersi con un documento da inviarsi al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio entro il 1° settembre 2012, cioè mentre sarà in corso di approvazione il testo di applicazione per l'Europa degli accordi di Basilea 3. Continuiamo a parlare di economia, sentiamo com'è andata la giornata di ieri in borsa. Secondo giorno di rimbalzo per la borsa milanese che si è confermata la piazza migliore in Europa insieme a Madrid. Il FTSE MIB ha guadagnato il 3,04% e l'All Share il 2,8%. Positivi anche gli altri indici del vecchio continente in attesa domani del vertice dei paesi dell'Eurozona sulla situazione greca. Ancora una volta il rally è stato trainato dai bancari con il settore europeo che ha chiuso in salita del 3,5%. 6,7%. A Piazza Affari la migliore nel comparto è stata la Popolare di Milano, in rialzo del 6,9% dopo la diffusione del piano industriale. Ha fatto ancora meglio Fonsai, balzata di oltre il 9%, grazie al giudizio positivo dell'agenzia di rating Fitch dopo la conclusione con successo dell'aumento di capitale. Nel resto del listino Molmed ha guadagnato oltre l'8%. La società, partecipata al 10,5% circa dalla Fondazione San Raffaele del Monte Tabor, ha precisato di non avere alcun legame con le vicissitudini che stanno coinvolgendo la Fondazione stessa. Livia Zancanera da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora, come abbiamo spesso fatto in questi giorni, parliamo dello scandalo intercettazioni che sta travolgendo l'impero mediatico di Rupert Murdoch. Gli ultimi aggiornamenti nel servizio. Sulla graticola di Westminster, dove è stato passato e ripassato, David Cameron se l'è cavata piuttosto bene. Ha reagito alle accuse dando quantomeno segni di vitalità, ma non è stato abbastanza abile da apparire del tutto convincente. Il rapporto fra lui ed Andy Coulson, il suo ex portavoce ed ex direttore del News of the World di Rupert Murdoch, è ancora coperto da un fragile diaframma che separa il Premier dallo scandalo sulle intercettazioni telefoniche che scuote la Gran Bretagna. La copertura ha retto alle decine e decine di domande a cui il capo del governo è stato sottoposto dai deputati, ma ha scritto anche il suo destino politico. Se una sola delle cose pronunciate da Cameron si rivelerà non vera, saranno davvero guai per lui. Ha confermato di non aver mai saputo delle intercettazioni e a suo parere anche Andy Coulson non ne era al corrente. Se non è così, ha detto, Coulson risponderà davanti alle sedi adeguate, ovvero davanti alle sedi giudiziarie. È andato più in là, precisando addirittura che non l'avrebbe mai assunto se avesse saputo il furore che questa scelta avrebbe poi provocato. Leonardo Maisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Goran Azic, l'ultimo criminale di guerra serbo ancora latitante, è stato arrestato. È accusato di genocidio e crimini contro l'umanità per le atrocità commesse durante la guerra tra Serbia e Croazia tra il 1991 e il 1995. Plaude l'Europa. Questa mattina, con l'arresto di Goran Azic, la Serbia ha chiuso l'ultimo capitolo della caccia ai ricercati per crimini di guerra. Il serbo Azic è accusato dal Tribunale Internazionale dell'AIA per crimini commessi agli inizi della guerra tra Serbia e Croazia, quando era presidente della Krajina, provincia divenuta terra croata dopo la proclamazione di indipendenza di Zagabria nel giugno del 1991. L'imputazione più grave a suo carico riguarda l'eccidio nel novembre di quello stesso anno di oltre 250 croati nell'ospedale della città di Vukovar, capitolata dopo 3 mesi di assedio dell'esercito di Belgrado e dei feroci paramilitari serbi. Azic, latitante dal 2004, è stato catturato in un villaggio turistico della Vojvodina, la stessa regione nel nord della Serbia, dove 2 mesi fa era stato arrestato l'ex generale serbo Ratko Mladic. Oggi dunque è caduto l'ultimo ostacolo posto da Bruxelles sulla via dell'integrazione di Belgrado nell'Unione Europea. Il Naragusin, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Chiudiamo con lo sport. Tour de France, l'arrivo a Pinerolo, premi il norvegese Boasson Hagen. Oggi tappone alpino, sentiamo tutti gli aggiornamenti nel servizio. Speriamo nel Colle dell'Agnello, speriamo nell'Isoar, soprattutto speriamo nel Galibier, lassù a 2645 metri sul livello del mare, dove sarà posto il traguardo più alto della storia del Tour. Speriamo nelle montagne vere per rivedere Ivan Basso là davanti, perché in questi giorni sono bastati 2 colli e soprattutto 2 discese per vedere il nostro perdere secondi su secondi. In 2 giorni sul Col de Mans e sul Colle Pramartino, Basso ha perso complessivamente da Contador, che anche oggi ha fatto il diavolo a 4 in compagnia di Samuel Sanchez, 1 minuto e 20 secondi. Ci consoliamo con Damiano Cunego, che zitto zitto, considerato da pochi per non dire da nessuno, questa sera scavalca Basso ed è il primo degli italiani, 7° della generale, a 3 minuti e 34 secondi dalla maglia gialla, sempre sulle spalle di Thomas Vauclair. Beffato ieri in volata dal connazionale Ushov, Edvard Boasson Hagen aveva detto di volersi riscattare subito ed è stato di parala. Ha azzeccato la fuga vincente e ha fatto la differenza proprio sulla salita di Pramartino ed è arrivato tutto solo al traguardo di Pinerolo, conquistando il suo secondo successo di tappa, il quarto della Norvegia, con 2 soli corridori in corsa. Per questo stagio era 24 ore 24 ore, Pinerolo. E per gli appuntamenti di oggi vi segnaliamo l'attesissimo vertice dei 17 leader dell'Eurozona